Ehi, scusa ragazzina, tu c'è il ragazzo. Sei una gran figa e lui fa schifo al cazzo. Vieni con novità bambolina, che ti giro con la testa nel cespuglio a pecorine e te lo piazzo. Backboard in azione e non ci fotti. Benefattori, sì, ma la Giongotti. Scendiamo in strada o in campo come Lotti. Tu guardami negli occhi se sai per cosa lotti. Te lo ripeto scemo, guardami negli occhi. Voglio diventare milionario senza Gerry Scotti. Spaccio prodotti per svegliare se notti. Ti faccio ripigliare come mille pippotti. E quando vengo faccio cosa voglio, accendo e spengo. Sembriamo staglioglio, ce ne andiamo al cottolengo. Ma non mi offendo, non mi arrendo, sono sorrendo a te. Ti vedo meglio con Kelly, Dylan e Brando. Ma qua zero Beverly 90, 210. Qua è 10 cento su grammo, una 010. Back boss, quattro, rino, ti cambia suono. Le vibrazioni che sento rincuono del tono. Tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono un tossico, e se mi arrestano no, farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono un tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro, bro, bro, bro, bro. Buon crew, vai contro i surplus. Ti smonto gli U2, io conto di più. Ti fotto di su e ti fotto di giù. Ti fotto tutto quanto, io ti fotto la TV. Pallottola in più, sta zoccola di turno. Torino by night, animale notturno. Metricamente perfetto, con bacio destro, sinistro, diretto e poi gancio. Spina nel fianco, guarda che i tuoi amici li mandiamo con i culatoni a stupinigi. Fumiamo in casa degli amici di Maria. Piante alte come edifici nella via. Backbone plus surplus come l'Audi. All we can be hero come David Bowie. Voglio il nostro logo più diffuso della Maui. Sono un mostro del fuoco, ma dopo uso un Audi. Tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono un tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono un tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono un tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro, bro, bro, bro, bro. Loro satteggiano e mi parlano di spacci, falsi stracciacci, mi danno finti ganci. Ma nel mio piatto non mangi, finto fatto che piangi. Spingo, ti fa pacco e tutto arrangi. Aggiustati da solo, io lo faccio da anni. Aggiustati da solo e non dirmi i tuoi drammi. E dammi soldi se vuoi drogarti. Tu dammi i tuoi sogni se ti fogni tardi. A 20 anni inizi con lo spianto. Io a 25 ormai la spina nel fianco. Arranco un fastidio, lo grido sul campo, sul palco. Quello che ti dico tu portalo in alto. Sì, da contrabbando, ovunque se sbando me la sfango. Sfrango chi non val dunque, ma comunque salvo. Salto il suo bastardo, lui si cazza ma lo sbarro. E mi condiziona se mi punti il trono. Tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro. Io sono tossico, e se mi arrestano farò palestra, no, non farò gangsta bro, bro, bro, bro, bro. Dai socio andiamo, push the button go. Sono più veloce di uno snow della Barton. So che se mi vedi tutto sfatto in giro, pensi quello è matto da legare come che sciro zio. E se mi fa incazzare me la leggo al dito. E poi divento cattivo come Carlito Brigante. Alla tua tipa tolgo le mutande. A te ti faccio uscire un po' di sangue dalla faccia zio. Che figuraccia di merda.